Tutte le luci erano accese, brillanti lampade a olio che si comprano nelle città straniere sulla costa. E gli uomini sedevano, sotto le luci, a bere e parlare, le giacche aperte per godere della frescura serale, e dappertutto si agitavano i ventagli e buone risate si riversavano sulla strada come musica. Tutta l'allegria che Wang Lung non aveva mai ricevuto dalla fatica nei campi era lì. Fra le mura di quella casa, dove gli uomini si incontravano per giocare e non mai per lavorare. Wang Lung esitò sulla soglia, colpito dalla luce brillante che fluiva dalle porte aperte. E sarebbe potuto restare là e andarsene, perché dentro di sé era ancora timido e pauroso, anche se il suo sangue correva per il corpo, pronto quasi a far esplodere le vene. Ma ecco che dalle ombre oltre il bordo della luce uscì una donna, che era stata appoggiata pigramente sulla cornice della porta ed era cucù. Vedendo una figura maschile si fece avanti perché il suo compito era quello di procurare clienti alle donne della casa, ma quando vide chi era si strinse nelle spalle e disse: "Ah, è solo il contadino." Wang fu punto dall'indifferenza tagliente della sua voce e la rabbia improvvisa gli diede un coraggio che altrimenti non avrebbe avuto, tanto che disse: "Beh, e non posso entrare nella casa e fare come gli altri uomini?" E lei alzò nuovamente le spalle, rise e disse: "Ah, se hai l'argento che hanno gli altri uomini, puoi fare come loro." E lui volle mostrarle che era un signore, ricco abbastanza per fare quello che gli piaceva. Infilò la mano nella cintura e la tirò fuori piena d'argento e le disse: "È abbastanza o non è abbastanza?" Lei fissò la manciata di argento e senza più indugiare disse: "Vieni e di quale desideri?" E Wang Lung, senza sapere cosa stava dicendo, mormorò: "Beh, non lo so se voglio qualcosa." E poi il desiderio lo sopraffece e sussurrò: "Quella piccola, con il mento appuntito e la faccia piccola, che sembra un fiore di mela, cotogna, bianco e rosa, e tiene in mano un bocciolo di loto." La donna annuì prontamente e, rivolgendogli un cenno col capo, si fece strada in mezzo ai tavoli affollati. E Wang Lung la seguì a distanza. All'inizio gli sembrava che ogni uomo sollevasse lo sguardo e lo osservasse, ma quando prese coraggio per guardare, si accorse che nessuno badava a lui, tranne uno o due che esclamarono: "Ma è tardi abbastanza per andare dalle donne?" E un altro gridò: "Ecco un tipo libidinoso che deve cominciare presto." Ormai però stavano salendo la stretta e dritta scala e Wang Lung faceva fatica perché non si era mai arrampicato sui gradini di una casa. Ma arrivato in cima, vide che era lo stesso rispetto al piano terra, solo che ebbe l'impressione di essere molto più in alto quando passò davanti a una finestra e guardò verso il cielo. La donna lo condusse lungo un corridoio chiuso e buio e, camminando, gridò: "Ecco il primo uomo della serata!" Lungo tutto il corridoio si aprirono all'improvviso delle porte e teste di ragazze si mostrarono qua e là nelle macchie di luce come fiori che sbocciano nel sole. Ma Cucù disse duramente: "No, tu no e tu no, nessuno ha chiesto di voi. Questo è per la piccola nana dalla faccia rosa di Shuqiao, Loto." Un'onda sonora corse lungo il corridoio, indistinta, derisoria, e una ragazza, rossa come una melagrana, esclamò con voce sonora: "Ah, che se lo prenda Loto questo, puzza di campi e di aglio!" Wang Lung sentì, ma non si degnò di rispondere, anche se quelle parole lo avevano colpito come una pugnalata. Temeva infatti di apparire davvero quel che era, cioè un contadino. Ma proseguì, risoluto, pensando al buon argento nella sua cintura. E alla fine la donna batté forte, col palmo allargato della mano, contro una porta chiusa e senza aspettare entrò. E sopra un letto, coperto da una trapunta rossa a fiori, era seduta un'esile ragazza. Se qualcuno gli avesse detto che esistevano mani piccole come quelle, non lo avrebbe creduto. Mani così piccole e ossa così fini e dita così affusolate, con unghie lunghe, color bocciolo di loto, di un rosa intenso. E se qualcuno gli avesse detto che potevano esserci piedi come quelli, piccoli e infilati in scarpe di raso rosa non più lunghe del dito medio di un uomo, che dondolavano infantilmente oltre il bordo del letto. Se qualcuno glielo avesse detto, non lo avrebbe creduto. Ora sedeva rigido sul letto accanto a lei, fissandola, e vide che era uguale all'immagine, e avendo visto l'immagine l'avrebbe riconosciuta se l'avesse incontrata. Ma soprattutto la mano era come la mano dipinta, sinuosa e fine e bianca come il latte. Le due mani giacevano incrociate sul grembo di seta rosa della sua veste e lui non avrebbe mai sognato che potessero essere toccate. La guardò come aveva guardato il quadro e vide la figura esile come bambù nella sua corta e aderente giacchetta, vide il piccolo viso appuntito, graziosamente truccato, sopra l'alto colletto bordato di pelliccia bianca, vide gli occhi tondi in forma di albicocca, tanto che finalmente capì cosa intendevano i cantastorie quando magnificavano gli occhi di albicocca delle bellezze antiche. Per lui la ragazza non era in carne e ossa, ma l'immagine dipinta di una donna. Poi lei sollevò la piccola mano sinuosa e gliela mise sulla spalla e la passò lentamente lungo il suo braccio, molto lentamente. E anche se non aveva mai sentito niente di così leggero e soffice come quel tocco, e se non l'avesse visto non se ne sarebbe accorto, Wang Lung guardò e vide la piccola mano muoversi sul suo braccio. Ed era come se un fuoco la seguisse e bruciasse attraverso la manica fino alla carne del braccio. E osservò la mano fin quando ebbe raggiunto la fine della manica, cadendo poi, dopo un istante di esperta esitazione, sul suo polso nudo e sull'incavo molle della sua mano dura e scura. E Wang Lung cominciò a tremare, non sapendo come dovesse accoglierla. Poi sentì una risata leggera, rapida, tintinnante, come una campanella d'argento che si agita nel vento sopra una pagoda, e una vocina ridente disse: Oh, ma come sei ignorante, così grande e grosso! Dobbiamo stare seduti qui tutta la notte mentre guardi fisso. E allora Wang Lung prese la mano di lei fra le sue mani, ma con attenzione, perché era come una fragile foglia secca, calda e secca, e le disse in tono implorante, senza sapere cosa stesse dicendo. Io non so niente, insegnami. E lei gli insegnò. Allora Wang Lung si ammalò della malattia più forte che un uomo può avere. Aveva sofferto per la fatica sotto il sole e aveva sofferto sotto i secchi venti ghiacciati dell'aspro deserto e aveva sofferto la fame quando i campi non davano frutto e aveva sofferto la disperazione di faticare senza speranza per le strade di una città del sud, ma per nessuna di queste cose aveva sofferto tanto quanto soffriva adesso, sotto la mano esile di quella ragazza. Ogni giorno andava alla casa da te, ogni sera aspettava che lei lo ricevesse, ogni notte andava da lei. Ogni notte andava da lei ed era sempre il campagnolo che non sapeva nulla, tremante sulla porta, seduto rigidamente accanto a lei, in attesa del segnale della sua risata. E poi in preda alla febbre, pieno di una fame malata che seguiva servilmente, piano piano, il suo aprirsi fino al culmine, quando come un fiore pronto per essere colto, lei era disposta a lasciarsi prendere interamente. Eppure non riusciva mai a prenderla interamente. Ed era questo ciò che manteneva in lui la febbre e la sete, anche se gli concedeva di usare su di lei il suo volere. Quando Lan era arrivata nella sua casa, era stata a salute per la sua carne, per lei aveva provato un desiderio robusto come un animale per la sua compagna, e la prendeva ed era appagato, e la dimenticava, e faceva soddisfatto il suo lavoro. Ma non c'era pagamento adesso nel suo amore per quella ragazza, e lei non poteva offrirgli salute. Di notte, quando non lo voleva più, lo spingeva stizzosamente fuori dalla porta, le piccole mani all'improvviso forti sulle sue spalle, l'argento di lui nascosto sul proprio petto, e lui se ne andava affamato come quando era venuto. Era come se un uomo che sta morendo di sete bevesse l'acqua salata del mare, che per quanto acqua asciuga tuttavia il suo corpo, suscitando una sete sempre maggiore, tanto che alla fine muore, reso folle dal suo stesso bere. Wang Lung andava da lei ed esercitava il proprio volere sempre di nuovo e se ne andava inappagato. Durante tutta quella calda estate Wang Lung amò così la ragazza, non sapeva niente di lei, da dove venisse o chi fosse. Quando erano insieme non apriva quasi bocca o ascoltava appena di sfuggita il torrente ininterrotto delle parole di lei, leggero e frammisto di risate infantili. Osservava solo il suo viso, le sue mani, le posture del suo corpo, i suoi occhi, grandi e dolci, e quel che volevano dire, in attesa di lei. Non aveva mai abbastanza di lei e tornava a casa all'alba, stordito e insoddisfatto. Le giornate erano infinite. Non dormiva più nel suo letto, adducendo il pretesto che la stanza era calda, e stendeva una stuoia sotto i bambù, e là dormiva sonni intermittenti. Giaceva sveglio a guardare le ombre appuntite delle foglie di bambù, il petto colmo di un dolore dolce e malato che non riusciva a capire. E se qualcuno, sua moglie o i suoi figli, gli parlava, o se Cinga andava da lui e diceva: «Presto le acque si ritireranno, quali semi dobbiamo preparare?» Lui gridava: «Perché mi disturbi?» E per tutto il tempo il suo cuore sembrava voler esplodere, perché il suo desiderio della ragazza restava insoddisfatto. A mano che i giorni passavano e lui viveva solo per trascorrerli fino alla sera, non guardava nemmeno le facce gravi di Olane e dei bambini, che quando lui si avvicinava giocavano improvvisamente tranquilli, e nemmeno suo vecchio padre, che lo scrutava e chiedeva: «Cos'è questa malattia che ti mette tanto di cattivo umore e rende la tua pelle gialla come creta?» E quando le giornate erano trascorse e arrivava la sera, Loto faceva di lui quel che voleva. Una volta che rise del suo codino, benché lui passasse parte della giornata a spazzolare e intrecciare i suoi capelli, e disse: «Gli uomini del sud adesso non hanno più queste code di scimmia!» Senza una parola andò a farselo tagliare, anche se in passato nessuna risata o sprezzo aveva saputo persuaderlo. Quando Lan vide quello che aveva fatto, sbottò inorridita: «Hai tagliato via la tua vita!» Ma lui le gridò: «Devo avere per sempre l'aria di uno stupido d'altri tempi? Tutti i giovani in città hanno i capelli corti!» Ma dentro di sé aveva paura di quello che aveva fatto. Eppure avrebbe tagliato la sua stessa vita se Loto l'avesse ordinato o voluto, perché possedeva ogni bellezza che la sua mente avesse mai desiderato in una donna. Il suo buon corpo bruno, che lavava di rado, ritenendo sufficiente a lavarlo in tempi normali il sudore pulito della sua fatica, quel corpo adesso cominciò a esaminarlo come se appartenesse a un altro uomo, e si lavava ogni giorno, tanto che sua moglie disse preoccupata: «Morirai a furia di lavarti!» Comprò in un negozio del sapone dal dolce profumo, un pezzo di una sostanza rossa e profumata venuta dall'estero, e lo strofinò sulla sua carne, e per nulla al mondo avrebbe più mangiato uno stelo d'aglio, anche se gli era sempre piaciuto moltissimo, per non puzzare in presenza di lei. E nessuno in casa sua sapeva come comportarsi di fronte a queste cose. Comprò anche nuove stoffe per vestiti, e anche se Olana aveva sempre tagliato le sue vesti facendole ampie e lunghe, abbondanti, e cucendole bene in modo che fossero resistenti, adesso disdegnò il suo modo di tagliare e cucire, e portò la stoffa da un sarto in città e si fece fare dei vestiti come quelli degli uomini in città, leggera seta grigia per una veste tagliata bene sul corpo e sopra questa una giacca senza maniche di raso nero. E per la prima volta nella sua vita comprò scarpe che non erano fatte da una donna, scarpe di velluto nero come quelle che l'anziano signore indossava ciabattando sui talloni. Ma si vergognava di indossare all'improvviso quei vestiti eleganti davanti a Olane e ai bambini, li teneva ripiegati in fogli di carta oleata marrone e li lasciava alla casa da tè, affidandoli a un inserviente con cui aveva fatto conoscenza. E dietro pagamento questo lo faceva entrare di nascosto in una stanza interna, e là lui li indossava prima di salire le scale. E oltre a questo si comprò un anello d'argento placcato d'oro, e quando i capelli sulla fronte, che un tempo rasava, cominciarono a crescere, li lisciò con un profumato olio straniero contenuto in una bottiglietta che aveva pagato un intero pezzo d'argento. Ma Olan lo guardava stupita e non capiva come fare di fronte a tutto questo, se non che un giorno, dopo averlo osservato a lungo mentre mangiavano il loro riso a pranzo, disse gravemente: «C'è qualcosa in te che mi fa pensare a uno dei signori della grande casa.» Allora Wang Lung rise forte e disse: «Devo avere sempre l'aria di un bifolco quando abbiamo abbastanza e anche di più?» Ma dentro di sé era molto contento, e quel giorno fu più gentile con lei di quanto non fosse stato da tempo. Adesso il denaro, il buon argento, scorreva via dalle sue mani. Non c'era solo il prezzo che doveva pagare per le sue ore con la ragazza, ma c'era anche la graziosa richiesta dei suoi desideri. Sospirava allora e mormorava, come se un desiderio le stesse spezzando il cuore: «Oh no, oh no!» E quando lui, che finalmente aveva imparato a parlare in sua presenza, le sussurrava: «Cosa c'è, mio tesoro?» Lei rispondeva: Oggi non mi dà gioia vederti, perché Giada Nera, quella che sta dall'altra parte del corridoio, ha un amante che le ha regalato una spilla d'oro per i capelli, e io ho solo questa vecchia robetta d'argento che possiedo da una vita. E a quel punto non poté fare altro che sussurrarle, scostando l'onda liscia e nera dei suoi capelli, così da avere la gioia di vedere le sue orecchie piccole dai lunghi lobi. Allora comprerò una spilla d'oro per i capelli del mio gioiello. Lei, infatti, gli aveva insegnato tutti quei nomi dell'amore, così come si insegnano parole nuove a un bambino. Gli aveva insegnato a dirgliele. E lui non era mai sazio, anche quando le balbettava. Lui, che per tutta la vita non aveva parlato d'altro che di semine, raccolto e sole e pioggia. E così l'argento usciva dal muro e dal sacco. E Olan, che un tempo avrebbe potuto facilmente dirgli: Perché prendi i soldi dal muro? Adesso non diceva niente e si limitava a guardarlo con grande tristezza, sapendo bene che aveva una vita lontano da lei e lontano persino dalla campagna, ma non sapeva che vita fosse. Ma aveva avuto paura fin da quando lui aveva visto chiaramente che era priva di bellezza nei capelli e nella figura, e quando aveva visto che i suoi piedi erano grandi e aveva paura di chiedergli qualcosa, temendo la rabbia che lui ora aveva sempre in serbo per lei. Accadde quindi un giorno che Wang Lung stava tornando a casa attraverso i campi e si avvicinò a lei che gli stava lavando i vestiti nello stagno. Restò lì in silenzio per qualche istante e poi le disse bruscamente, ed era brusco perché si vergognava e non voleva riconoscere dentro di sé la vergogna: Dove sono quelle perle che avevi? E lei rispose timidamente, alzando gli occhi dal bordo dello stagno e dai vestiti che stava battendo su una pietra liscia e piatta. Le perle le ho io. E lui mormorò senza guardare il suo viso, ma solo le mani grinzose e bagnate. Non ha senso tenere delle perle per non farci niente. Allora lei disse piano: Pensavo che un giorno potrei montarle su degli orecchini. E temendo la sua risata, aggiunse: Potrei darli alla bambina più piccola quando si sposerà. E lui rispose forte, indurendo il suo cuore. Perché dovrebbe portare perle con quella pelle nera come la terra? Le perle sono per le donne dalla pelle chiara. Poi, dopo un istante di silenzio, d'un tratto esclamò: Dammele, mi servono. Lentamente, lei infilò la mano bagnata e raggrinzita sotto la giacca, all'altezza del petto, e tirò fuori il piccolo involto e glielo diede, osservandolo mentre lo apriva. E le perle erano adesso nella sua mano e catturavano delicatamente tutta la luce del sole, e lui rise. Ma Olan riprese a battere i vestiti del marito, e quando le lacrime caddero lente e pesanti dai suoi occhi, non levò la mano per asciugarle. Col bastone di legno batté soltanto con più vigore gli abiti stesi sopra la pietra. 20. E così sarebbe potuto andare avanti per sempre, fino a esaurire tutto l'argento, se quell'altro, lo zio di Wang Lung, non fosse tornato all'improvviso senza spiegare dove era stato o cosa aveva fatto. Spuntò sulla porta, come se fosse caduto da una nuvola, i vestiti laceri, sbottonati e buttati addosso al corpo, e la faccia come era sempre stata, ma piena di rughe e indurita dal sole e dal vento. Fece un ampio sorriso, quasi una smorfia, rivolto a tutti loro seduti intorno alla tavola per il pasto mattutino. E Wang Lung rimase a bocca aperta perché aveva dimenticato che suo zio era in vita ed era come se fosse morto e da morto fosse tornato a trovarlo. Il vecchio suo padre sgranò gli occhi e non riconobbe l'uomo appena arrivato, finché questo non esclamò: Eccomi, fratello maggiore e suo figlio e i suoi figli e mia nuora. Allora Wang Lung si alzò sgomento nel cuore, ma cordiale in viso e nella voce. E hai mangiato, zio? No, rispose prontamente lo zio, ma mangerò con voi. Si sedette e avvicinò a sé una ciotola e delle bacchette e si servì liberamente del riso e del pesce secco salato e delle carote sottosale e dei fagioli secchi che erano in tavola. Mangiò come se fosse molto affamato e nessuno parlò fin quando non ebbe trangugiato 3 ciotole di pappa di riso, facendo crocchiare rapidamente sotto i denti le lische del pesce e i noccioli dei fagiolini. E quando ebbe mangiato, disse semplicemente, come fosse suo diritto: Adesso voglio dormire, perché sono 3 notti che non dormo. Quando poi Wang Lung, sbalordito e non sapendo cos'altro fare, lo portò al letto del padre, suo zio sollevò le coperte e tastò la buona stoffa e il nuovo cotone pulito e guardò la struttura di legno del letto e il buon tavolo e la grande sedia di legno che Wang Lung aveva comprato per la stanza del padre e disse: "Beh, avevo sentito che eri ricco, ma non sapevo fino a questo punto." E si buttò sul letto e tirò la coperta fin sulle spalle, nonostante il calore dell'estate, e usò ogni cosa come se fosse sua, e si addormentò senza dire altro. Wang Lung tornò nella stanza centrale molto spaventato perché sapeva bene che suo zio ora non si sarebbe mai lasciato allontanare, sapendo che il nipote aveva abbastanza di che nutrirlo. E Wang Lung pensava a questo e pensava con grande paura alla moglie dello zio perché sapeva che sarebbero venuti in casa sua e nessuno avrebbe potuto fermarli. Successe come aveva temuto. Passato il mezzogiorno, lo zio si stiracchiò sul letto e fece tre sonori sbadigli e uscì dalla stanza, stringendosi addosso i vestiti, e disse a Wang Lung: "Adesso vado a prendere mia moglie e mio figlio. Siamo tre bocche e nella tua grande casa non si sentirà mai la mancanza di quello che mangiamo e dei poveri abiti che indossiamo." Wang Lung non poté fare altro che rispondere con uno sguardo tetro, perché è una vergogna se un uomo che ha abbastanza e anche di più scaccia il fratello del proprio padre e il figlio di costui dalla propria casa. E Wang Lung sapeva che se l'avesse fatto sarebbe stato una vergogna agli occhi del villaggio, dove adesso era rispettato per la sua prosperità, e quindi non osò dire niente, ma ordinò ai lavoranti di trasferirsi completamente nella vecchia casa, cosicché le stanze vicino al portone fossero vuote, e là, quella stessa sera, si trasferì lo zio con la moglie e il figlio. Wang Lung era arrabbiatissimo, tanto più perché doveva seppellire tutto nel suo cuore e rispondere con sorrisi e dare il benvenuto ai suoi parenti, e tuttavia, nel vedere la faccia grassa e liscia della moglie di suo zio, fu sul punto di andare su tutte le furie. E nel vedere la faccia impudente da mascalzone del figlio di suo zio, faticò a trattenere la mano e a non mollargli uno schiaffo. E per 3 giorni non andò in città, tanta era la rabbia. Poi, quando tutti si furono abituati all'accaduto, e Olan gli ebbe detto: "Smetti di essere arrabbiato, è una cosa che si può sopportare." E Wang Lung vide che suo zio e la moglie e il figlio dello zio sarebbero stati cortesi quanto basta in considerazione del cibo e dell'alloggio. I suoi pensieri si rivolsero più violentemente che mai a Loto e mormorò a se stesso: "Quando un uomo ha la casa piena di cani selvaggi deve cercare pace altrove." E tutta la vecchia febbre e la pena bruciavano in lui e continuava a non essere soddisfatto del suo amore. Quel che Olan, nella sua semplicità, non aveva visto, o il vecchio a causa della sua debolezza per l'età, o Ching per via della sua amicizia, la moglie dello zio di Wang Lung lo vide immediatamente e col riso che le trapelava dagli occhi esclamò: "Wang Lung sta cercando di cogliere un fiore da qualche parte." E quando Lan la guardò umilmente senza capire, lei rise e disse ancora: "Il melone deve essere bene aperto per poterne vedere i semi, eh? Beh, detto semplicemente, il tuo uomo è pazzo per un'altra donna." Queste parole Wang Lung sentì pronunciare dalla moglie di suo zio in cortile, sotto la sua finestra, mentre stava disteso un mattino presto nella sua stanza, sonnecchiante e disperato a causa del suo amore. Subito fu ben sveglio e continuò ad ascoltare, sbigottito, di fronte all'acutezza degli occhi di quella donna. La voce proseguì riversandosi come olio dalla sua grassa gola. "Ne ho visti di uomini, e quando uno tutto all'improvviso si liscia i capelli e compra vestiti nuovi e vuole scarpe di velluto, vuol dire che c'è una nuova donna, questo è sicuro." Un suono rotto venne da Olan e Wang Lung non riuscì a sentire cosa dicesse, ma la moglie di suo zio disse ancora: "E non credere, povera stupida, che a un uomo può bastare una donna sola, e se è una donna stanca e lavoratrice che ha consumato la sua carne lavorando per lui, per l'uomo non basta di certo. La sua fantasia corre altrove, tanto più in fretta, e tu, povera stupida, non sei mai stata buona per la fantasia di un uomo, ma sei poco più di un bue che fatica. E non devi prendertela, se quando hai soldi ne compra un'altra da portare nella sua casa, perché tutti gli uomini sono così, e anche il mio buono a nulla lo farebbe, ma il povero disgraziato non ha mai avuto nella vita abbastanza argento nemmeno per nutrirsi." Disse questo e di più, ma Wang Lung, Sul suo letto non sentì altro perché la sua mente si fermò a quel che lei aveva detto. All'improvviso capì come poteva soddisfare la sua fame e la sua sete della ragazza che amava. L'avrebbe comprata e portata in casa sua, cosicché nessun altro uomo potesse andare da lei, e così avrebbe potuto mangiare e bere ed essere contento.